Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Coronavirus, continuiamo a monitorare la situazione. Oggi in linea con noi il dottor Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottor Rezza. Buongiorno a voi. Dottore, per l'OMS il livello di rischio passa da moderato a elevato. Cosa significa? Ci aiuti un po' a capire quanto rischiamo e quali precauzioni si stanno adottando per scongiurare il rischio pandemia? Ma guardi, questo è stato soprattutto la modalità con cui è stato comunicato, un po' strana per quanto riguarda l'OMS, che ha detto ci eravamo sbagliati, il rischio per il resto del mondo non è moderato ma è elevato. Sbagliati in che senso? Cioè è stato un errore di scrittura, un errore di valutazione? Bisognerebbe capirlo bene. Certo, ieri il direttore generale dell'OMS era a Pechino per capire meglio la situazione e è stata modificata comunque questa dizione. Adesso non siamo ancora alla dichiarazione di emergenza globale, ma sembrerebbe un po' un preludio, ovvero il rischio che l'infezione si diffonda al di fuori della Cina è considerato maggiore rispetto a quanto fosse stato evidentemente scritto nel documento OMS alcuni giorni fa. E quali precauzioni, dottor Rezza, si stanno adottando? Da parte europea, soprattutto italiana, ricordiamo che l'Italia è quella che ha preso provvedimenti più restrittivi sino ad ora, anche in Europa cambia probabilmente poco, perché le misure erano in atto, misure che consistono ad esempio nello screening con i termoscanner all'aeroporto, quindi per valutare se ci sono passeggeri con temperatura elevata, con la febbre, in quel caso verrebbero immediatamente isolati. Sappiamo che è una misura che non sufficiente, perché chiaramente potrebbero esserci dei passeggeri in arrivo che stanno incubando, che stanno in periodo in tempo di incubazione, quindi è logico che si preveda anche un percorso dopo delle procedure, ad esempio il 1500, il numero del Ministero che risponde anche in cinese, in modo dopo da poter attivare il 118 a domicilio, bypassare il pronto soccorso e isolare direttamente eventuali persone malate in reparto di malattie infettive. Dottor Rezza, si rafforza l'ipotesi che a portare il virus nel mercato di Wuhan sia stata una persona già precedentemente infettata e non uno o più animali infetti. Sono tre ipotesi: una, un'esposizione a un'unica sorgente di infezione nel mercato di Wuhan; due, una esposizione a più sorgenti di infezione, cioè più animali infetti, quindi multipli passaggi di specie nel mercato di Wuhan; o l'altra ipotesi, la terza, che adesso comincia a essere più accreditata, che nel mercato di Wuhan sia arrivata una persona, almeno una persona già infetta, e che quindi l'infezione abbia cominciato a trasmettersi da persona a persona anche prima o poco prima che si manifestasse questo focolaio nel mercato di Wuhan. Che cosa cambia? Beh, innanzitutto è importante valutare un'eventuale esposizione a fonti animali, perché chiaramente bisognerebbe dopo prendere dei provvedimenti. Si sa che i mercati di animali vivi in Cina sono sempre stati un problema, hanno rappresentato una fonte di esposizione a virus, sia con la SARS che con nel caso dell'influenza aviaria. Certo, se la diffusione da persona a persona fosse iniziata prima, allora ci troveremmo di fronte a una situazione in cui probabilmente il numero di casi è maggiore, proprio perché è da più tempo che l'infezione sta circolando, ma allo stesso tempo la mezza buona notizia potrebbe essere che abbiamo tanti casi, ma semplicemente perché effettivamente questo virus aveva cominciato a circolare prima. Queste ipotesi che si stanno facendo si stanno però tutte valutando. Bene, per oggi è tutto. Tra poco una nuova diretta Facebook. Cambiamo decisamente argomento. Parliamo di cistite. Si può prevenire, soprattutto evitare che torni. Seguiteci se volete sapere come. A tra poco.